Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. I've seen the lights go out on Broadway. I saw the Empire State laid low. Lo confesso, in genere non mi piacciono i libri troppo corposi, per questo mi sono avvicinata, diciamo con una certa prudenza, a Città in fiamme, che è l'opera prima dell'americano Garth Risk-Holberg, pubblicato in Italia da Mondadori con la traduzione di Massimo Bocchiola. Ma era un libro, insomma, che non potevo trascurare, mettiamola così. È un romanzo di 1000 pagine che negli Stati Uniti è stato osannato dalla critica. L'editore americano, per accaparrarsi questo manoscritto, ha versato $2 milioni di anticipo. Allora, all'inizio sono rimasta un po' spiazzata dai tanti personaggi e dalle storie parallele, però devo dire che questo romanzo ha qualcosa che trascina, qualcosa che attrae, perché alla fine, nella stessa sera, ho letto 140 pagine di fila. Il libro è bello, quindi si legge con piacere, sì, certo, in queste 1000 pagine ogni tanto c'è qualche piccolo calo, qualche momento di stanca, ma insomma, complessivamente sono 1000 pagine che meritano. È ambientato nella New York fra il 76 e il 77, una New York violenta, piena di droga, dominata dal movimento punk. Il lettore segue le storie dei vari personaggi che lentamente iniziano a collegarsi. Allora, un breve flash su alcuni personaggi e situazioni. C'è Sam, che è una ragazzina inquieta che segue il movimento punk e viene raggiunta da 2 colpi di pistola a Central Park nella notte di Capodanno. Viene trovata da Mercer, che è un professore nero, il quale ha una relazione omosessuale con William, rampollo di una famiglia ricca di New York. Poi c'è la sorella del rampollo, Reagan, che a sua volta ha una relazione con un altro uomo. Insomma, storie abbastanza complesse. Storie che si intrecciano fino, diciamo, a lungo il grande finale che culmina con il blackout di New York del luglio del 77. L'idea della trama è venuta in mente allo scrittore dopo l'attentato delle Torri Gemelle, mentre ascoltava per caso una canzone di Billy Joel, Miami 2017, che state ascoltando anche voi in sottofondo, scritta nel 76, ma che già all'epoca immaginava una sorta di metafora di distruzione di New York, un po' come è successo appunto la notte del blackout e poi l'11 settembre. E allora sentiamo Garth Risk-Holberg con la traduzione in presa diretta di Paolo Noseda. It seemed to me and of course I speak from an American's perspective. Beh, diciamo che mi è sembrato, e certo lo dico tenendo in considerazione il mio punto di vista, la mia prospettiva da americano, che gli eventi del settembre del 2011 di fatto marcassero e segnassero una grandissima transizione rispetto per esempio a quegli anni 90 in cui si era vista e la caduta del muro di Berlino e ancora prima la fine della guerra fredda o comunque la fine di alcuni conflitti che avevano segnato quell'epoca. E in quegli anni ci si trovava di fronte ad una situazione in cui si pensava che appunto molti di questi conflitti e molti di questi problemi potessero trovare una soluzione, mentre invece c'è quello che è poi accaduto, che è il nostro mondo contemporaneo, è caratterizzato dall'ansia, dai conflitti, dalle tensioni, dai pericoli, da situazioni di disordine, ma anche però di grandi possibilità positive in positivo. Ecco, è stato tutto questo tipo di situazione, di idee che mi hanno portato nell'estate del 2003 a veramente cominciare a pensare molto profondamente come esprimere in un romanzo questi 2 anni di lavoro che mi ci sono voluti, no, per descrivere la nostra epoca di conflitto, di ansia, di tensioni, ma anche di possibilità, sulla scorta e sulla brivio della descrizione della città di New York negli anni 70. Which was the New York of the 1970s. New York negli anni 70, soprattutto nel periodo che lei prende in considerazione, 76-77, era una città violenta, una città in cui c'era molta droga, ma c'era anche molta creatività. Era un momento di fermento sia in positivo che in negativo. Lei non ha vissuto quegli anni, quindi si sarà documentato perché è troppo giovane. Secondo lei, quelli che oggi hanno 50-60 anni hanno nostalgia di quella New York? It's a complex kind of nostalgia. I spoke to many people while writing. Beh, devo dire che è una nostalgia molto complessa, perché ovviamente io ho parlato con moltissime persone che erano, vivevano a New York e che naturalmente non sapevano che io stessi scrivendo un libro proprio su questa cosa, proprio perché deliberatamente non li avevo avvertiti di questi, di questo. Diciamo che guidavo un po' la conversazione in modo tale di poterli portare a parlare di quel periodo, perché volevo saperne di più. E la prima cosa che tutti dicono è stato un momento terribile, incredibilmente terribile. D'altro canto, voglio dire, nello stesso periodo anche in Italia non è che stesse meglio dal punto di vista dei ricordi terribili degli anni 70. Però la seconda cosa che tutti poi mi dicono anche parallelamente è stato anche un periodo assolutamente magico. Quindi è una nostalgia, sì, da un certo punto di vista, però una nostalgia molto complicata, se si può chiamare nostalgia. Poi, ecco, è anche un periodo di ricordi indelebili questo, perché le persone sono quasi tutte, quando parlano, testimoniando quegli anni, quasi dei romanzieri, perché si ricordano dei dettagli assolutamente minuti e con molto, molto entusiasmo. Indelible details. And of course this excited me. Questo romanzo ha tanti personaggi. Da lettrice, appena ho iniziato a leggerlo, all'inizio sono rimasta un po' spiazzata, poi la narrazione mi ha preso e devo dire va giù veramente come, va dritto come un treno, come si direbbe, insomma, da noi. Dal suo punto di vista, invece, da scrittore, tutti questi personaggi c'erano già dall'inizio o qualcuno si è presentato work in progress? That was very much the initial vision of the book, and I knew that it would challenge. Diciamo che questa è stata proprio la visione iniziale del libro, appena ho iniziato a scriverlo, e volevo anche che fosse un po' una sfida per i lettori, perché io sono uno che crede moltissimo nei lettori, e credo anche soprattutto nella grande capacità che i lettori hanno e di prestare attenzione e di provare interesse per quello che leggono. Quindi diciamo che all'inizio ho proprio pensato di costruire quasi fisicamente questa città o di ricostruirla con la mia prosa, però era una città dove all'interno della quale c'era molto caos e io ho cominciato un po' a flirtare, no, con i bordi di questa città così caotica al suo interno, e ora diciamo che da questa città caotica ho tirato fuori casa mia, la mia casa e la casa anche, spero, per i lettori. Become a home for the reader inside the chaos. Questo è un periodo in cui vanno di moda i romanzi molto corposi, sia negli Stati Uniti ma anche in Italia. Però come opera prima, ha mai pensato che potesse essere un azzardo un libro di 1000 pagine? The whole first 3 years of the writing. Beh, devo dire che certamente ci sono voluti 1 o 3 anni per scriverlo, questo libro, e nel corso di questi 3 anni me lo sono detto e ripetuto parecchie volte che questo sarebbe stato un libro assolutamente impubblicabile, un po' per la portata che aveva questo libro, un po' perché io non ero nessuno e un po' perché anche molto probabilmente non è che credessi poi al 100% nel mio talento e quindi non ero neanche sicuro di riuscire a farcela. Poi man mano che passava il tempo, però al tempo stesso mi dicevo, ma io questo libro lo amo, come amo molti dei libri che ho letto di questo tipo. E allora, come dire, nonostante tutto quello che si dice sul fatto che ormai l'attenzione dei lettori vada sempre più scemando, che c'è sempre meno gente che insomma legge libri lunghi e così, mi sono reso conto che invece non è proprio poi così tutto vero. C'è ancora molta gente che adora l'avventura, che si lascia tirare dentro dei libri di 2000 pagine, come per esempio l'opera di Elena Ferrante, che lei molto intelligentemente ha suddiviso in 4 volumi. Ma insomma, credo in questa indomita anima del lettore che riesce a superare anche queste difficoltà. There's something indomitable in the spirit of the reader, I think. Io trovo che in questo libro la fine degli anni 70 sia resa in maniera perfetta. Io mi ci sono tuffata, ero piccola all'epoca, però ricordo l'eco di quello che arrivava dagli Stati Uniti e da New York, l'immagine di questa città, appunto, come dicevamo, violenta, piena di droga. E c'era anche il fenomeno punk, fenomeno musicale, ma anche come fenomeno di costume. Che tipo di eredità ha lasciato quel fenomeno lì nella sua generazione? Lei è più giovane di me anche, quindi insomma. I first encountered punk rock through my teenage obsession with poetry. Devo dire che la punk rock è stata una delle prime cose davvero che mi ha molto colpito, nel senso che un po' l'influenza del punk rock è dovuta al fatto che io da adolescente avessi questa ossessione per la poesia, e man mano la mia ossessione mi ha portato per esempio a scoprire Lou Reed. Poi devo dire, quando sono andato a vivere a Washington DC, che era metà degli anni 90 più o meno, c'era una certa scena punk a New York, e io lì avevo 16-17 anni, e questo mi ha influenzato non poco. E questa scena punk pian piano si è come trasformata in una specie di situazione di giallo, no? Nel senso che era un po' un universo, questo del punk, che era solo apparentemente distruttivo, perché questa energia apparentemente distruttiva era poi un'energia creativa che riusciva a creare molte cose diverse. Per esempio, il punk rock aveva i propri valori che andavano contro i valori del consumismo, ma avevano modalità di espressione totalmente diverse. E anche se il punk è rimasto un pochino un po' underground, diciamo una subcultura, è riuscito a vaccinare moltissime persone contro la mania dello shopping compulsivo, per esempio, che è una cosa di cui io non ho mai sofferto. There's nothing more to life than shopping. Questo era Garth Risk-Olberg, autore di Città in fiamme, pubblicato in Italia da Mondadori con la traduzione di Massimo Bocchiola. Ed è tutto per questa puntata, grazie in regia Gianmarco Ferronato. Come sempre vi ricordo che trovate tutte le puntate su podcast, quindi se non l'ascoltate alle 6.30 o alle 22 del sabato, potete ascoltare le puntate naturalmente comodamente nell'orario che preferite. Grazie a tutti per l'ascolto e una buona lettura da Alessandra Tedesco.